Carl non viene picchiato. Ho una cosa che credo di dovervi dire, fece misteriosa Mary Vance. Lei, Faith e Una stavano passeggiando sotto braccio in paese dopo essersi incontrate al negozio del signor Flagg. Una e Faith si scambiarono uno sguardo che diceva: sta per succedere qualcosa di spiacevole. Quando Mary Vance credeva di dover dire qualcosa, in genere non era niente di buono. Spesso si chiedevano come fosse possibile che continuassero a trovarla simpatica, perché era così, nonostante tutto. A dir la verità, di solito era una compagnia piacevole e interessante, se solo si fosse tolta dalla testa quell'idea di dover dire tutto a tutti. Lo sapete che Rosemary West non vuole sposare vostro padre perché pensa che voi siate troppo turbolenti? Ha paura di non riuscire a educarvi, perciò lo ha rifiutato. Il cuore di Una esultò in segreto. Era felice di sapere che la signorina West non avrebbe sposato suo padre. Faith invece era un po' delusa. E come lo sai? Chiese. Oh, lo dicono tutti. Ho sentito la signora Elliot che ne parlava con la signora dottora. Pensavano che fossi troppo lontana per sentire, ma io l'ho l'udito di un gatto. La signora Elliot ha detto che di sicuro Rosemary aveva paura di diventare la vostra matrigna per via della vostra reputazione e vostro padre adesso non va più a trovarla sulla collina. Anche Norman Douglas ha smesso di andarci. La gente dice che Ellen lo ha rifiutato per vendicarsi di quando lui ha rifiutato lei tanti anni fa. Lui però continua a dire in giro che alla fine riuscirà a conquistarla. Insomma, ho pensato che doveste sapere che avete rovinato il matrimonio di vostro padre, ed è un peccato secondo me, perché prima o poi dovrà pur risposarsi, e Rosemary West sarebbe stata la moglie migliore che mi viene in mente per lui. Ma tu hai detto che tutte le matrigne sono cattive e crudeli, disse una. Oh beh, disse Mary un po' confusa, in genere sono delle gran brontolone, è vero, ma non credo che Rosemary West potrebbe mai essere cattiva con nessuno. Ve lo dico, se vostro padre cambia idea e sposa Emily Drew, desidererete tutti di esservi comportati meglio, di non aver spaventato Rosemary. È una cosa terribile che per via della vostra reputazione nessuna donna decente voglia sposare vostro padre. Ovviamente io so bene che metà delle cose che dicono di voi non sono vere, ma ormai vi siete fatti una fama. Un sacco di gente pensa che siano stati Jerry e Carla a tirare dei sassi contro la finestra della signora Stimson l'altra sera. Invece sono stati i ragazzi Boyd. Però temo che sia stato davvero Carla a mettere quell'anguilla nel calesse della signora Carr, anche se ho detto che prima di crederci volevo sentirlo dire da qualcun altro che non fosse quella vecchiaccia di Kitty Alec. L'ho detto alla signora Elliot. Cos'è che ha fatto Carla? Esclamò Faith. Beh, gira voce e bada che ti sto solo riferendo quello che dice la gente, quindi non prendertela con me, che una sera della scorsa settimana Carla e degli altri ragazzi siano andati a pescare le anguille dal ponte. Mentre erano lì è passata la signora Carl con quel suo vecchio calesse malandato che ha la parte dietro scoperta. Dicono che Carl ci abbia tirato dentro una grossa anguilla e mentre la povera signora Carl stava salendo la collina per andare a Ingleside, se l'è ritrovata che si contorceva tra i suoi piedi. Ha pensato che fosse un serpente, perciò ha urlato, si è alzata ed è saltata giù e il cavallo è schizzato via per lo spavento. Ma poi è tornato a casa. Perciò non è successo niente di grave. La signora Carr però si è fatta male alle gambe e ogni volta che ripensa a quell'anguilla le vengono le convulsioni. Insomma, è stato proprio un brutto scherzo da giocare a quella poveretta. È una brava persona, anche se è matta come un cavallo. Faith e Una si scambiarono un'occhiata. Sembrava proprio materia per il club della buona condotta, ma non volevano parlarne con Mary. Eccoli vostro padre, disse Mary, vedendo passare il signor Meredith. Come al solito non si è accorto di noi. È come essere invisibili. Beh, io mi ci sono abituata e non ci faccio più caso, ma tanta gente invece sì. Il signor Meredith non li aveva visti, ma non stava camminando nel suo solito stato trassognato e distratto. Risaliva la collina, agitato e a disagio perché la signora Davis, profondamente indignata, gli aveva appena raccontato la storia di Carla e dell'anguilla. La vecchia signora Carr era una sua cugina di terzo grado e il signor Meredith era ben più che indignato. Era ferito. E sconcertato, non pensava che Carl fosse capace di fare qualcosa del genere. Tendeva a non essere particolarmente duro di fronte a monellerie causate da distrazioni o dimenticanze, ma questa volta era diverso, c'era una punta di cattiveria in quella faccenda. Quando arrivò a casa, trovò Carl sul prato, intento a studiare pazientemente le abitudini e i comportamenti di una colonia di vespe. Lo chiamò nel suo studio Egli parlò con in volto l'espressione più seria che i suoi figli gli avessero mai visto. Prima di tutto gli chiese se la storia fosse vera. Sì, disse Carla, arrossendo, ma guardando coraggiosamente suo padre negli occhi. Il signor Meredith brontolò, aveva sperato che la vicenda fosse almeno in parte frutto di un'esagerazione. Raccontami tutto, disse. I ragazzi stavano pescando le anguille dal ponte, disse Carl. Link Drio ne aveva presa una enorme, davvero era gigante, l'anguilla più grande che abbia mai visto. L'aveva pescata proprio all'inizio ed era rimasta nel suo cesto per un sacco di tempo, ferma immobile. Pensavo fosse morta, veramente. Poi la signora Carr è passata sul ponte, ci ha gridato che eravamo dei delinquenti e che dovevamo ritornarcene a casa. Noi non le avevamo detto niente, papà, davvero. Quando è ripassata, dopo essere stata al negozio, gli altri ragazzi mi hanno sfidato a mettere l'anguilla di Link nel suo calesse. Io pensavo fosse morta e non potesse fare del male a nessuno, quindi ce l'ho buttata. Poi però quella è tornata in vita sulla collina e noi abbiamo sentito le urla e abbiamo visto la signora Carl saltare giù dal calesse. Mi è dispiaciuto tanto. È andata così, papà. La situazione era meno grave di quanto il signor Meredith avesse temuto, ma era comunque una faccenda seria. Dovrò punirti, Carl, disse addolorato il pastore. Lo so, papà. Devo picchiarti. Carl fece una smorfia. Non era mai stato picchiato. Ma vedendo quanto era a disagio suo padre, disse allegramente: Va bene, papà. Il signor Meredith fraintese quell'allegria e l'attribuì alla sua insensibilità. Disse a Carla di tornare nel suo studio dopo cena e quando il bambino uscì si lasciò cadere sulla poltrona con un gemito. Dopodiché attese quella sera con molto più timore di Carla. Il povero pastore non sapeva nemmeno con che cosa dovesse picchiarlo. Come si picchiano i ragazzi? Con un bastone? Con una canna? No, sarebbe stato troppo brutale. Forse un ramoscello. Ma doveva andare lui in persona, John Meredith, a tagliarlo nel bosco. Era un pensiero intollerabile. Poi un'immagine gli si presentò alla mente, quella del volto avvizzito e rugoso della signora Carr di fronte all'anguilla rediviva. La vide saltare come una vecchia strega oltre le ruote del calesse e prima di riuscire a trattenersi scoppiò a ridere. Poi si arrabbiò con se stesso e ancora di più con Carla. Sarebbe andato subito a procurarsi quel ramoscello e magari non l'avrebbe scelto troppo tenero, dopo tutto. Carl, nel frattempo, stava discutendo della questione nel cimitero con Faith e Una, che erano appena tornate a casa. Le ragazze erano inorridite all'idea che venisse picchiato, e per di più da loro padre, che non aveva fatto mai niente del genere, ma concordarono che era la cosa giusta da fare. Lo sai anche tu che è stata un'azione orribile, sospirò Faith. E non l'hai nemmeno tirata fuori al club. Mi sono dimenticato, disse Carl. E poi pensavo di non aver fatto male a nessuno. Non sapevo che la signora Carr si era ferita le gambe. Adesso comunque papà mi picchierà e questo rimetterà a posto le cose. Ti farà molto male, disse una prendendogli una mano. Oh, non molto, credo, rispose lui spavaldo. In ogni caso non piangerò, anche se sarà doloroso. Papà ci starebbe troppo male se lo facessi. Già adesso è proprio giù. Vorrei potermi picchiare da solo per non farlo fare a lui. A cena Carl mangiò pochissimo e il signor Meredith per niente. Dopodiché entrambi andarono in silenzio nello studio. Sulla scrivania c'era il famoso ramoscello. Il signor Meredith aveva fatto parecchia fatica a trovarne uno che facesse al caso suo. Il primo che aveva tagliato gli era parso troppo sottile. Carly in fondo aveva fatto qualcosa di indifendibile. Ne aveva tagliato un altro che invece era troppo spesso. Dopotutto Carla aveva creduto che l'anguilla fosse morta. Il terzo l'aveva soddisfatto, ma prendendolo dalla scrivania gli parve grosso e pesante, più simile a un bastone che a un ramoscello. Tendi la mano, disse a Carla. Carla alzò la testa e tese la mano in avanti senza battere ciglio. Ma era pur sempre un bambino. E non riuscì a nascondere del tutto la paura che provava. Il signor Meredith lo guardò negli occhi. Gli occhi di Cecilia erano proprio uguali e ci vide la stessa espressione che aveva visto una volta in quelli di lei, quando era venuta da lui a dirgli una cosa che aveva avuto timore di rivelargli. Eccoli là, gli occhi di Cecilia, sul visetto piccolo e pallido di Carl, lo stesso bambino che 6 settimane prima, in quella notte infinita e terribile, aveva pensato stesse per morire. John Meredith abbassò il ramoscello. Vai, disse, non posso farlo. Carl filò di corsa nel cimitero, pensando che lo sguardo di suo padre era molto peggio che essere picchiato. È già finito tutto? Chiese Faith. Lei e Una erano sedute sulla tomba dei Pollock, a denti stretti e tenendosi per mano. Non mi ha picchiato, disse Carl con un singhiozzo, ma vorrei che l'avesse fatto. Adesso è lì che si sente malissimo. Una si allontanò. Il suo cuore desiderava con tutto se stesso consolare suo padre. Silenziosa come un topolino, aprì la porta dello studio ed entrò. L'unica luce nella stanza era quella fioca del tramonto. Suo padre era seduto alla scrivania e le dava le spalle, tenendosi la testa tra le mani. Parlava tra sé e sé, mormorava parole angosciate, ma Una lo sentì e lo capì. In un subitaneo barlume di comprensione che spesso coglie i bambini sensibili e orfani di madre. Silenziosa come era entrata, uscì e richiuse la porta. E John Meredith continuò a bisbigliare il suo dolore in quella che credeva fosse un'indisturbata solitudine. Una va in collina. Una salì al piano di sopra. La luna era appena sorta e Carl e Faith si erano già incamminati verso la valle dell'arcobaleno, da dove avevano sentito le note fatate dello scacciapensieri di Jerry, e avevano quindi immaginato di trovare anche i Blythe pronti a giocare insieme. Ma Una non aveva voglia di andare, entrò in camera sua e si sedette sul letto a piangere. Non voleva che nessun'altra prendesse il posto della sua cara mamma, non voleva una matrigna che l'avrebbe odiata e avrebbe convinto suo padre a odiarla. Ma suo padre era così disperato e infelice. E se poteva fare qualcosa per aiutarlo, era suo dovere farla. C'era solo una cosa che poteva fare, e nell'istante stesso in cui era uscita dallo studio, aveva capito che doveva farla. Solo che era davvero molto difficile. Dopo aver pianto, si asciugò gli occhi e andò nella stanza degli ospiti. Era buia e odorava di muffa, perché le persiane erano chiuse e le finestre non venivano aperte da parecchio. Zia Marta non era una grande amica dell'aria fresca, ma poiché alla canonica nessuno si prendeva mai il disturbo di chiudere le porte, nessuno ci badava. E, a parte qualche sfortunato pastore che si fermava a dormire la notte ed era costretto a respirare l'aria viziata di quella stanza. C'era un armadio lì, e proprio in fondo vi era appeso un abito grigio di seta. Una entrò nell'armadio e chiuse la porta. Si inginocchiò e appoggiò il viso sulle pieghe morbide del tessuto. Era l'abito da sposa di sua madre ed era ancora intriso del suo profumo lieve e dolce, come quello di un amore persistente. Quando era lì, Una si sentiva sempre vicinissima alla mamma, come se fosse accovacciata ai suoi piedi con il capo posato sul grembo di lei. Ogni tanto, quando la vita si faceva troppo dura, andava lì. Mamma, sussurrò alla gonna di seta grigia, non ti dimenticherò mai. E ti vorrò sempre bene, più che a chiunque altro. Ma devo farlo, sai, perché papà è proprio infelice. So che tu non vorresti vederlo così. E sarò molto brava con lei, mamma. Proverò a volerle bene, anche se sarà come le matrigne di cui mi ha parlato Mary Vance. Una uscì dal suo tempio segreto con una rinnovata forza di spirito e quella notte dormì pacifica, con le lacrime che ancora scintillavano sul suo visetto dolce e serio. Il pomeriggio seguente indossò l'abito più bello che aveva e il cappello. Erano entrambi abbastanza trasandati. Tutte le ragazze di Glen quell'estate avevano dei vestiti nuovi, tranne Faith e Una. Mary Vance aveva un adorabile vestito di batista bianco ricamato, con una fascia di seta rossa e le spalline. Ma quel giorno a Una non importava avere degli abiti vecchi, voleva solo essere in ordine. Si lavò scrupolosamente il viso e pettinò i capelli neri finché non furono morbidi come il velluto. Poi allacciò per bene i lacci delle scarpe dopo aver rammendato due buchi nelle sue calze migliori. Le scarpe in realtà avrebbe voluto lucidarle, ma non trovò il lucido da nessuna parte. Infine uscì dalla canonica e scese nella valle dell'arcobaleno, passando tra gli alberi che mormoravano fino a raggiungere la strada che conduceva alla casa sulla collina. Era una lunga camminata e Una era stanca e accaldata quando arrivò. Vide Rosemary West seduta sotto un albero in giardino e andò verso di lei, passando accanto all'aiuola delle dalie. Rosemary aveva un libro in grembo, ma stava fissando l'orizzonte, oltre il porto, immersa in pensieri piuttosto tristi. Negli ultimi tempi la vita in quella casetta sulla collina non era stata molto piacevole. Ellen non aveva messo il broncio, era stata una roccia, ma ci sono cose non dette che si percepiscono comunque, e il silenzio tra le due donne era tanto eloquente quanto intollerabile. Tutte le piccole cose familiari che una volta rallegravano la loro vita adesso avevano un retrogusto amaro. Norman Douglas ogni tanto faceva irruzione e tentava di intimorire e costringere Ellen. Prima o poi, pensava Rosemary, l'avrebbe trascinata via con sé per i capelli e lei ne sarebbe stata quasi felice. La sua vita sarebbe diventata orribilmente solitaria, ma almeno avrebbe smesso di vivere sopra una polveriera. Un timido tocco sulla spalla la riscosse dalle sue fantasticherie. Quando si voltò, vide una Meredith. Una cara, sei venuta fin quassù con questo caldo? Sì, disse una, sono venuta per. Trovava molto difficile spiegare cosa era venuta a fare. La voce le venne meno e gli occhi si riempirono di lacrime. Una, piccolina, cos'hai? Non aver paura, puoi dirmelo. Rosemary mise un braccio intorno alla figuretta magrolina e attirò la bambina a sé. Aveva degli occhi così belli e un tocco così gentile che una ritrovò il coraggio. Sono venuta a chiederle di sposare papà, balbettò. Rosemary rimase in silenzio per un istante in preda al puro sconcerto. Fissò una perplessa. Oh, la prego, non si arrabbi, cara signorina West, la implorò una. Vede, tutti dicono che non vuole sposare papà perché noi siamo cattivi e lui è molto infelice per questo, perciò ho pensato di venirle a spiegare che noi non siamo mai cattivi apposta. E se lei sposerà papà, proveremo a essere più buoni e faremo quello che ci dirà. Sono sicura che non le daremo problemi. La prego, signorina West. Rosemary dovette pensare in fretta. Capì che erano stati i pettegolezzi della gente a mettere in testa una quell'idea sbagliata. Doveva essere sincera e onesta con lei. Una cara, disse dolcemente, non è per colpa vostra che non posso sposare tuo padre. Non ho mai pensato niente del genere, voi non siete cattivi, non ho mai pensato che lo foste. C'era un'altra ragione, una. Non le piace il mio papà? Chiese una lanciandole un'occhiata di rimprovero. Oh, signorina West, lei non sa quanto è gentile, sono sicura che sarebbe un bravo marito. Nonostante la situazione di imbarazzo e confusione, Rosemary non riuscì a reprimere un sorriso. Oh, non rida, signorina West. Esclamò una appassionata. Papà sta terribilmente male. Penso che ti sbagli, cara, disse Rosemary. Oh no, sono sicura di no. Lo sa, signorina West. Ieri papà doveva picchiare Carl perché era stato cattivo, ma non ce l'ha fatta perché non ha mai picchiato nessuno. Perciò, quando Carl è uscito e ci ha detto che lui ci è rimasto male, sono entrata nello studio per vedere se potevo aiutarlo. Mi piace consolarlo, sa. Lui però. Non mi ha sentito entrare e io ho sentito quello che stava dicendo. Glielo dirò, signorina West, se me lo fa sussurrare all'orecchio. Una sussurrò con sincerità quel che aveva sentito e il volto di Rosemary si fece scarlatto. Quindi John Meredith le voleva ancora bene, non aveva cambiato idea e doveva volerle bene davvero se aveva detto quel che aveva detto, più di quanto lei avesse immaginato. Rimase seduta per un attimo ad accarezzare i capelli di una, poi disse: Potresti portare una mia lettera a tuo padre, una? Oh, lo sposerà, signorina West? Chiese una ansiosa. Forse, se lui davvero mi vuole, disse Rosemary arrossendo di nuovo. Oh, sono felice, felice, disse coraggiosamente una. Poi alzò la testa, le labbra che le tremavano. Signorina West, però non ci metterà papà contro, vero? Non lo convincerà a odiarci? Le chiese con tono implorante. Rosemary la fissò di nuovo. Una Meredith, pensi che potrei mai fare una cosa del genere? Chi ti ha messo in testa quest'idea? Mary Vance ha detto che le matrigne sono tutte così, che odiano i loro figliastri e li fanno odiare dai loro padri. Dice che non possono farci niente, che quando sei una matrigna diventi così. Ah, povera ragazza. E sei comunque venuta a chiedermi di sposare tuo padre perché volevi farlo felice? Sei una cara bambina, un'eroina, una roccia, come direbbe Ellen. Adesso ascoltami bene, tesoro. Mary Vance è una sciocca ragazzina che non sa tante cose E si sbaglia clamorosamente su altre. Non mi sognerei mai di mettervi contro vostro padre e vi amerei con tutta me stessa. Non voglio prendere il posto di vostra madre. Lei vivrà sempre nei vostri cuori, ma non voglio nemmeno essere una matrigna, semmai un'amica, un aiuto, una compagna. Non credi che sarebbe bello se tu, Faith, Carl e Jerry poteste pensarmi come una vostra amica o come una sorella maggiore? Oh, sarebbe bellissimo! Esclamò una con il viso trasformato, gettando d'impulso le braccia al collo di Rosemary. Era così felice che le sembrava di poter volare. E gli altri? Faith e i ragazzi hanno la stessa idea che avevi tu sulle matrigne? No, Faith non ha mai creduto a Mary Vance e io sono stata stupida a farlo. Faith le vuole già bene, le ha voluto bene da quel giorno in cui hanno cucinato il povero Adam. E a Jerry e Carl piacerà l'idea. Oh, signorina West, quando verrà a vivere con noi mi insegnerà. Potrebbe insegnarmi a cucinare solo un pochino e a cucire, a fare tutte quelle altre cose. Io non ne so niente. Non le darò troppo fastidio. Tenterò di imparare in fretta. Cara, ti insegnerò tutto e aiuterò tutti voi come posso. Però non dire niente a nessuno di questa storia, nemmeno a Faith, finché tuo padre non ti dirà che puoi farlo. Va bene? E ti andrebbe di restare per il tè? Oh, grazie, ma preferisco tornare subito a casa e dare la lettera a papà, rispose una. Così sarà felice prima. Capisce, signorina West? Capisco, disse Rosemary. Poi rientrò in casa, scrisse un biglietto e lo diede a una. Quando la piccola damigella corse via, un fagottino palpitante di felicità, Rosemary andò da Ellen che stava sbocciando i piselli nella veranda sul retro. Ellen, disse. Una Meredith è appena stata qui per chiedermi di sposare suo padre. Ellen alzò la testa e lesse l'espressione sul volto della sorella. E tu lo farai? Disse. Penso proprio di sì. Ellen continuò a sbucciare i piselli per diversi minuti, poi si portò le mani al volto. Aveva gli occhi scuri, pieni di lacrime. Spero proprio che saremo tutti felici, disse tra un singhiozzo e una risata. Alla canonica, intanto, una Meredith accaldata, con il viso rosso e un'aria trionfante, marciò nello studio di suo padre e posò una lettera sulla scrivania di fronte a lui. Il suo viso pallido si rianimò quando riconobbe la scrittura nitida e sottile che conosceva così bene. Aprì la lettera. Era molto breve, ma mentre la leggeva gli parve di ringiovanire di 20 anni. Rosemary gli chiedeva se quella sera, al tramonto, potevano vedersi alla sorgente nella valle dell'arcobaleno. Che arrivi il pifferaio. E quindi, disse la signorina Cornelia, il doppio matrimonio sarà a metà mese. In quella sera di inizio settembre c'era già una punta di gelo nell'aria, perciò Anna aveva acceso il caminetto nel salotto grande, sempre pronto con dei ramoscelli secchi, e insieme alla signorina Cornelia si stava crogiolando davanti alle fiamme scoppiettanti. È una cosa splendida, soprattutto per il signor Meredith e Rosemary. Disse Anna. Sono felice come quando mi sono sposata io. E ieri, quando sono salita sulla collina a vedere il corredo di Rosemary, mi è sembrato proprio di essere di nuovo una sposa. Dicono che il suo corredo sia degno di una principessa, disse Susan da un angolino in penombra dove stava cullando il suo bel moretto. Sono stata invitata anch'io a vederlo. Ci andrò una di queste sere. Se ho ben capito, Rosemary si sposerà in bianco con il velo, Ellen invece avrà un abito blu scuro. Non dubito che sia una scelta ragionevole da parte sua, signora dottora cara, però io ho sempre pensato che se mi fossi sposata avrei preferito il bianco e il velo. Sono più da sposa. Quanto al signor Meredith, disse la signorina Cornelia, il fidanzamento lo ha reso un uomo diverso, è molto meno trasognato e assente, credete a me. Sono stata molto sollevata quando ho saputo che ha deciso di chiudere la canonica durante il viaggio di nozze e far ospitare i bambini dagli amici. Se li avesse lasciati da soli con la zia Marta per un mese intero, mi sarei svegliata tutte le mattine con il timore di trovare la casa rasa al suolo da un incendio. Jerry e la zia Marta verranno a stare qui, disse Anna. Carl invece dal signor Clow. Non ho capito però dove andranno le ragazze. Oh, vengono da me, disse la signorina Cornelia. Ovviamente mi fa piacere, ma Mary non mi avrebbe dato pace se non le avessi invitate. La società di mutuo soccorso si occuperà di ripulire la canonica da cima a fondo prima che lo sposo e la sposa ritornino e Norman Douglas riempirà la cantina di verdura. Norman è proprio uno spettacolo in questi giorni. È così emozionato l'idea di sposare Ellen West dopo che l'ha desiderata per tutta la vita. Se fossi al posto di Helen, ma non lo sono. E se lei è contenta, lo sono anche io. Anni fa, quando ancora era una ragazzina e andava a scuola, la sentii dire che non voleva certo un cucciolo mansueto per marito. Non c'è niente di mansueto in Norman Douglas, credete a me. Il sole stava tramontando sulla valle dell'arcobaleno. Il laghetto era una distesa dalle sfumature viola, dorate, verdi e scarlatte. Le colline a oriente erano avvolte in una foschia azzurrina sopra la quale galleggiava una luna grande, pallida e tonda, simile a un'argentea bolla di sapone. I ragazzi erano tutti lì, seduti nella piccola radura. Faith e Una, Jerry e Carl, Jem e Walter, Nan e Dee e Mary Vance. Era un'occasione speciale, stavano festeggiando l'ultima sera di Jem nella Valle dell'Arcobaleno. La mattina dopo sarebbe partito per frequentare la Queen's Academy a Charlottetown. Il loro piccolo circolo incantato si rompeva, perciò, nonostante l'allegria di quella festicciola in quei giovani cuori felici, c'era anche un pizzico di tristezza. Vedete laggiù, oltre il tramonto, c'è un grande palazzo dorato, disse Walter indicando lontano. Guardate le sue torri lucenti e le bandiere scarlatte che sventolano lassù. Forse un condottiero sta tornando a casa dopo una grande battaglia e le hanno appese in suo onore. Oh, quanto vorrei che tornassero i giorni di tanto tempo fa, esclamò Jem. Mi piacerebbe essere di nuovo un soldato o un generale trionfante e darei qualsiasi cosa per vedere una grande battaglia. Jem sarebbe diventato davvero un soldato e avrebbe visto la più grande battaglia mai combattuta al mondo. Ma tutto questo era ancora nel futuro. La madre di cui era il primogenito ancora poteva guardare i suoi ragazzi e ringraziare il cielo che i gloriosi tempi antichi che Jem bramava fossero passati per sempre. E che i figli del Canada non dovessero più scendere in battaglia per le ceneri dei loro padri e i templi dei loro dei. L'ombra della Grande Guerra non aveva ancora manifestato i suoi gelidi presagi. I ragazzi che avrebbero combattuto sui campi di battaglia della Francia e delle Fiandre, nella penisola di Gallipoli e in Palestina, erano ancora scolaretti impertinenti, con una vita serena davanti a loro. Le ragazze, che avrebbero sofferto nel profondo dei loro cuori, erano ancora fanciulle piene di sogni e speranze. Le bandiere della cittadella del tramonto ammainarono le bandiere rosse e oro, e l'acclamazione del condottiero lentamente svanì. Il tramonto avanzò strisciando nella valle e il gruppetto si fece silenzioso. Quel giorno Walter aveva letto di nuovo il suo amato libro di leggende e ricordò di quella volta in cui aveva immaginato che il pifferaio di Hamelin scendesse nella valle in una sera come quella. Cominciò a parlare con voce sognante, in parte perché voleva emozionare un po' i suoi compagni, in parte perché qualcosa che veniva da fuori di lui sembrava volersi esprimere tramite le sue labbra. Il pifferaio si sta avvicinando, disse. È più vicino dell'altra sera in cui l'ho visto. Il suo lungo mantello scuro gli sventola tutto attorno e lui suona, suona. E noi dobbiamo seguirlo. Jem, Carl, Jerry e io lo seguiremo per tutto il mondo. Ascoltate, ascoltate, non sentite infuriare la sua musica? Le ragazze rabbrividirono. Lo so che stai solo fingendo, protestò Mary Vance. Smettila, per favore, lo fai sembrare quasi vero. Lo odio, questo tuo pifferaio. Jem scoppiò in una risata allegra. Si alzò in piedi su una collinetta, alto e splendido, con il volto limpido e gli occhi audaci. C'erano tanti ragazzi come lui in tutto il Canada, il paese degli aceri. Che venga allora questo pifferaio, il benvenuto, esclamò agitando una mano. Sarò felice di seguirlo in giro per il mondo. Fine.